IA, intelligenza in prima linea. Se c'è quella artificiale, cos'è quella umana? Di Federico Pedrocchi. Ma noi oggi sappiamo dare una definizione di intelligenza umana? Perché questo è il punto, se si parla tanto, come avviene, di questi tempi di intelligenza artificiale. È una storia strana, davvero, ma non incomprensibile. È iniziata una cinquantina d'anni fa, anche un po' di più, quando si era agli inizi dell'era dei computer ed emerse questo tema: ma le macchine possono, potranno pensare? Con un sacco di fantascienza che aveva preparato il terreno, naturalmente. Un estratto da quello splendido film Pianeta Proibito del 1956, dove c'è Robby, un robot che cucina il cibo. Non so che cibo fosse, ma certo era delizioso. Manicaretti sintetici di Robby. È anche cuoco? Sì, e produce da sé la materia prima. Vieni qui, Robby. Adesso vedrete come funziona. Ecco, vedete, basta introdurre un campione di cibo qualsiasi in questa apertura. Sotto c'è installato un laboratorio chimico in cui egli lo analizza, dopodiché può riprodurre le stesse molecole in qualsiasi forma e quantità. L'ideale per le mogli. E ciò con cieca e assoluta obbedienza. Attiva il polverizzatore. Ecco, lo scienziato butta una mela davanti a Robby. Sentite, lui la disintegra, quindi fa anche spazzatura. Non gli attribuite dei sentimenti, però. Robby non è che una macchina, ma con una forza tremenda da sradicare questa casa dalle sue fondamenta. Ci fu un'esplosione di ricerche, ma poi il quadro complessivo risultò insoddisfacente. E allora di intelligenza artificiale si smise di parlare. Poi ci fu una ripresa verso gli anni Ottanta del secolo scorso. L'intelligenza artificiale rimise fuori la testa, ma anche questa volta buttò male la vicenda. Di nuovo in immersione, quindi. Siamo agli ultimi anni, nei quali un insieme di avanzamenti tecnologici hanno messo in campo potenze di varia natura che non ha nemmeno senso confrontare con il passato. Potenze di calcolo, lo sappiamo, enormi capacità di elaborare trilioni di dati, un conseguente sviluppo di algoritmi molto veloci. E qui c'è un passaggio su cui bisogna prestare attenzione, perché per comportamenti intelligenti l'elaborazione di tanti dati è importante, ma poi bisogna anche andare in fretta. Voglio dire, se uno entra in un bar e dice vorrei, e dopo due giorni dice un, e dopo altri due giorni caffè, e macchiato arriva nel weekend, capite che non si può parlare di intelligenza. L'intelligenza è nella comunicazione. Va bene, Giorgio Vallortigara è uno dei più importanti neuroscienziati oggi in circolazione, non solo in Italia. Gli ho chiesto, proviamo a dire cosa sia l'intelligenza umana. Guarda, scherzando, ma neanche tanto, gli psicologi spesso dicono che l'intelligenza è quello che misurano i test, no? Che è un modo di aggirare il problema, dicendo, beh, noi guardiamo a una definizione, come dire, operativa dell'intelligenza. Ma questo lascia tutti molto, molto bocca amara. Si potrebbe dire che l'intelligenza è, e su questo credo siamo tutti un po' d'accordo, la capacità di risolvere problemi. L'intelligenza, soprattutto, in special modo quella umana, si caratterizza per il fatto di essere un meccanismo generale per la risoluzione dei problemi, oppure è più giusto un approccio che è quello che favoriscono, insomma, gli studiosi di formazione biologica, che dicono non c'è nulla di simile a questo, ma piuttosto l'evoluzione biologica, la selezione naturale ci ha dotato di una serie di meccanismi, di singole intelligenze che sono dominio specifiche per la risoluzione di problemi specifici. Cioè non c'è un general problem solver, ma ce ne sono tanti locali, ciascuno che si è sviluppato sotto l'azione di certe pressioni selettive. Questa questione qui è tutto sommato rilevante anche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, del machine learning, se ci pensi, no? Perché è una questione abbastanza fondamentale. C'è anche una via di mezzo possibile che è stata ventilata da alcuni, cioè quella di dire è giusto l'approccio delle tante intelligenze locali, ognuna sviluppatasi in risposta a problemi specifici, ma nel caso dell'uomo ce n'è una anche di tipo astratto e generale. E cioè, mentre per un lungo tratto della storia evolutiva gli ambienti erano relativamente stabili, per così dire, con la comparsa dell'uomo e con lo sviluppo della società, della cultura, tu hai una continua modificazione sugli ambienti, con la comparsa di nuovi problemi, di nuove challenge, diciamo così, di tipo cognitivo. E in ragione di questo la nostra specie ha sviluppato un tipo particolare di intelligenza, chiamiamola astratta, che consente di risolvere problemi in vari ambiti, in vari domini. Allora però, se ho capito bene, si può parlare di una strumentazione fatta di diverse intelligenze che abbiamo per risolvere tanti problemi specifici in ambiti specifici. Singolarmente però andremmo nella direzione dell'intelligenza artificiale, dove abbiamo delle verticalità, no? Delle macchine che fanno molto bene delle cose specifiche in un certo ambito. Però poi invece noi avremmo in più, e credo anche molti animali, la capacità di percorrere trasversalmente un po' diversi ambiti, di mettere insieme intelligenze diverse e fare uno strumento che è più potente. Questa è un'idea, anzi per alcuni questo potrebbe essere anche quello che costituisce un po' il Rubicone, la separazione rispetto alle altre specie, nei riguardi della specie umana, no? E cioè le dotazioni specifiche che ti vengono date in relazione alla possibilità di manipolare simboli in una maniera sofisticata, ti danno anche la possibilità di fare da ponte o di costruire dei ponti tra quel tipo di intelligenze locali che un po' tutti gli organismi posseggono, ma che rimangono, per così dire, confinate e che non possono parlarsi tra di loro se tu non hai un medium come è, per esempio, il linguaggio verbale. Quindi noi umani saremmo degli abilissimi miscelatori. Questo sarebbe un primo modo per definire l'intelligenza? Chissà, può essere. L'intelligenza è connessa alla coscienza di sé? Diciamo di sì. Quindi dovrebbe essere definibile quando una macchina arriva al punto di poter diventare cosciente. Affronta questo interrogativo Danilo De Rossi, in modo un po' divertente, del Centro Enrico Piaggio di Pisa. C'è una signora, c'era, americana o inglese, anziana, che aveva circa 30 o 40 pezzi artificiali dentro. Quando è un robot, un cyborg, è una signora anziana con delle parti di ricambio. 40 pezzi, dal qui a qui a qui. Quando è che cambi quell'ultimo pezzo e cambia? Ora, la stessa natura è un continuo. Natura non fa il salto, come nei sessi. Vabbè, noi siamo sempre manichei, dicotomici. C'è un continuum. Allora io questo continuum lo prendo come un fatto naturale. Quanti pezzi deve avere qualcuno perché non sia più un essere umano? Ma uno dice la coscienza. Allora, se si apre il discorso coscienza, si va a finire chissà dove. Incontreremo spesso in questo viaggio nell'intelligenza artificiale i ricercatori del Centro Piaggio, perché nei loro laboratori si lavora sulla base di un'idea di fondo. Non possiamo costruire macchine con prestazioni davvero intelligenti se esse non imparano ad averle, quindi hanno un corpo che si relaziona con il mondo. Ancora Danilo De Rossi. Intanto non c'è sviluppo, non c'è vera intelligenza, qualunque cosa dia, se non c'è interazione col mondo. Ora, quello che è un concetto che io trovo profondamente inadeguato nell'ingegneria di quel tipo, ma anche in certe cose delle neuroscienze, è legato all'aspetto di questa illusione che noi abbiamo di pianificare. Il mondo non è pianificabile. Faccio un esempio. Noi abbiamo l'illusione di fare piani, ma siamo mossi da desideri, pulsioni e bisogni. Quello che avviene, non lasciamo stare, anche nel nostro sistema ultrastrutturato, non lo puoi fare pianificato in un programma. Non esiste. Non esiste, prendi una storia, cioè non esiste, è tutta un'illusione deterministica, un'illusione tendente a un razionalismo sciocco. Non è possibile, Quindi tutto avviene attraverso l'interazione col mondo. E non c'è interazione col mondo se non c'è un corpo, se non c'è un apparato motorio, se non c'è un apparato sensoriale. Ora, questo può essere a vari livelli, a varie sofisticazioni o meno. Noi prima agiamo e poi facciamo le lacrime, i coccodrillo, i sorrisi da scimmia. Cioè, ci sono 300 millisecondi, che sono tanti, fra il fatto di fare una cosa e prenderne coscienza. Cioè, noi viviamo nel passato. 300 millisecondi sono tanti. Noi agiamo perché siamo pronti in ogni istante, in maniera inconscia, ad agire. Sia a livello di muscoli, sia a livello di endorfine, sia a livello di tutto. Dopo tendiamo a razionalizzare quello che abbiamo fatto. Ma noi abbiamo già fatto. Ma questo corpo che interagisce nell'umanoide, secondo lei deve avere quindi la nostra forma, le braccia, le gambe, un naso, delle orecchie? Certe cose sì, dipende che uso ne voglio fare. Se si tratta di fare società con gli umani, sicuramente sì. Però, ripeto, come ho già detto, posso fare un gatto, posso fare un cane, posso fare qualunque altra cosa, posso fare una barile con le gambe o senza gambe, a rotelle. Quello che io ripeto è, se non si può, siccome questo mondo è tutto interdipendente, non posso dire sposto quello e il resto non cambia. Dipende dal contesto, certo, e dipende dall'ambiente in cui io colloco questa creatura. A questo punto, care ascoltatrici e ascoltatori, dovreste essere in uno stato di fascinazione con un sacco di domande, vagamente disorientati. È giusto che sia così, perché questa è la condizione mentale di fondo di chi si mette in viaggio dell'intelligenza artificiale. Se volete mandare mail, intelligenzaartificiale@radio24.it, intelligenza con le due A al centro, intelligenzaartificiale@radio24.it. Alla prossima e buona intelligenza a tutti e tutte.